esprimermi un desiderio di vendetta e di libertà. È il senso della morte che ribadisce la stranezza di questi giullari e che appartiene al Medioevo di cui essi sono carichi. È gente che paga sempre di persona, e infatti, se non erriamo, mentre avviene la loro ricacciata nella zona oscura e randagia da cui provengono, uno di essi muore, esausto. Copione di affermazioni, di messe in campo, di ipotesi laboratoriali, non finalizzato. Una specie di promemoria a non dimenticare la realtà scandalosa, steso con quel procedimento metaforico che personalmente non crediamo adatto a dare al teatro italiano contemporaneo quell'incisività di cuneo nelle cose d'oggi di cui c'è assoluto bisogno. Del resto, il Doppliker stesso e il regista Roberto Guicciardini hanno provveduto ad un'elaborazione scenica poi coinvolgente tutto il gruppo della Rocca. Il risultato è uno spettacolo di grande suggestione figurativa, di eccellente sintassi compositiva, folto di malizia e di abbandoni, nutrito di molti estri e allusività, e a tratti anche emozionante. L'esercizio del gruppo si traduce in una sapienza di segni ormai senza uguali. Il regista Guicciardini, tornato a quel complesso che aveva fondato, non solo si è immerso nell'ultimo stadio del processo linguistico, ma vi ha indotto, ci pare, una scarnificante naivete e qualcosa d'allucinato, di teso, un tono di scabra disperazione. La scena e gli strepitosi costumi di Lorenzo Ghiglia, la scena è un'originalissima veduta dall'alto di una Firenze in diaspora e comprende un sotterraneo ventre dei giullari. Concorrono al felicissimo racconto scenico, alla sua forza evocativa, e non meno belle sono le musiche di Nicola Piovani. Inappuntabile il concerto recitativo condotto da Palla Pavese, Ireneo Petruzzi, Armando Spadaro, Fiorenza Broggi, Mario Mariani, Giovanni Boni, Loredana Alfieri, Dorotea Slanidis, Guido De Monticelli, Antonello Mendolia e dai loro colleghi, con esemplarità di presenza personale e di concordia timbrica e gestuale. Il palcoscenico è davvero tutto godibile e quasi si astrae. Che il problema sia adesso un nascondimento nuovo dietro la parola, e con questo problema chiudo la recensione dell'undicesima giornata del Decamerone di Fabio Doppliker, messo in scena dal gruppo della Rocca al Salone Pier Lombardo di Milano, e mi preparo per mandare un pezzo musicale. Consiglio, detto a metà, un po' più in alto e un po' più in là. Altro non sa quell'uomo qualunque del vostro papà. Curare il giardino e sapere cucire un giardino. Scusate, adesso vorrei farvi qualche segnalazione, anzi una segnalazione per ciò che riguarda lo spettacolo teatrale del Comunale di Ferrara, che ci sarà l'11 marzo, martedì alle ore 21 per l'abbonamento A, e l'8 marzo sempre alle ore 21 ed è un sabato per l'abbonamento B. Lo spettacolo è Ligabue Antonio, scusate, di Angelo Dalla Giacoma, per la regia di Memè Perlini. Lo spettacolo fa parte anche dell'abbonamento giovani, e per l'abbonamento giovane ci sarà alle ore 15 lunedì 10 marzo, martedì 11 e mercoledì 12. Dimenticavo di dire che per ciò che riguarda gli abbonamenti giovani, lo spettacolo può essere visto anche senza abbonamento per la cifra di 2000 lire. Mentre per lo spettacolo serale dell'11 marzo e dell'8 marzo, lo spettacolo si può vedere essendo disponibile dei posti di loggione e di galleria. Cristina adesso vi fa un'altra segnalazione. Cioè al Teatro Mazzini di Forlì, giovedì sera, cioè il 6 marzo, cabaret con Leopoldo Mastelloni. E vi segnalo appunto questo spettacolo, che fa parte di una rassegna che l'ENDAS ha deciso appunto di programmare nei teatri di Forlì, cioè soprattutto al Mazzini, e merita veramente di essere seguita. Infatti giovedì 27 febbraio è stato rappresentato il cabaret con Livia Cerieri. Ecco, dopo di questo mandiamo di nuovo un disco. Esagerato, rinunciare. Dunque, abbiamo dimenticato di dirvi che per lo spettacolo di Mémé Perlini, Ligabue Antonio, probabilmente faremo la recensione sabato prossimo. Con questo abbiamo finito e vi dico che i brani che abbiamo sentito da intervalli musicali sono stati tratti dall'ultimo album di Lucio Battisti e i loro titoli erano, se non ricordo male, Amore mio di provincia, Una vita viva e l'ultima Arrivederci a questa sera. Con questo abbiamo finito e vi salutiamo. Arrivederci a sabato prossimo. Ciao Cristina. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capriole. Napoleone prima andava avanti questo dramma, e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltar. Napoleone di Francia viaggia ancora e si dispera, da quel dì che verso sera ce ne andammo senza recitar. Eppure voi ragazze piangerete, se tramma non vedrete fino in fine. Dove se state attenti imparerete a far l'amore come le regine. Non temete se stanotte scuro, abbiamo 30 lune di cartone, con dentro le lucerne col carburo, da far sembrare la luna un sol leone. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Vedrete una regina scellerata, innamorata, fatta del figlioccio, far fuori 3 mariti e la cognata, e dar la colpa al fatto del mattaccio. Napoleone francese per vederci da vicino, venne apposta sul Ticino, con coi crocchi a guerreggiar. Napoleone il primo che in prigione stava all'elba, mi scappò un mattino all'alba, per